bel pensiero sei, nei pensieri miei, tu che amore dai, quanto più ne hai, e mi piace sai, come vivi tu, già sicura che non ti fermi più. Donna, domani il mondo tuo sarà, yeah. Che guerriero sei, non ti arrendi mai, vincerai perché sai quello che vuoi. Donna, domani il mondo tuo sarà, nelle tue mani il mondo cambierà, somiglierà a te, bello sarà come te, sarà il tuo capolavoro di fantasia. Seguirò, quante cose sai, quante cose fai, sensibilità e genialità, quante cose che riconosco in te.